È stata molto bella, sono contento, lo voglio dedicare assolutamente al Ziz, secondo me anche lui mi ha dato un po' una mano. Bisogna stare sereni, quando le cose non vanno benissimo bisogna mantenere calma e serenità. Un grandissimo entusiasmo che questa Open Italia meritava, è stato un giro incredibile, assolutamente, specialmente le seconde nove sono state probabilmente le migliori della mia vita. Tutti convocati di Carlo Genta. Beh, allora, anche se non ha vinto a Las Vegas, è un uomo fortunato. Io ho i soldi, ho la sicurezza, ho gli affari, ma lei ha qualcosa che io non ho. Penso che ci siano dei limiti a quello che il denaro può comprare. Non molti. Alcune cose non sono in vendita. C'è dice, suba il volume che il verano comincia l'azione. Conosco la passione del presidente e tutta la sua famiglia per l'Inter. Credo che sono cose che staranno valutando loro. Vediamo noi. Aspettiamo, la cosa più importante, credo che il presidente ci tiene tantissimo all'Inter e per lui l'Inter è molto importante. Quindi secondo te non vende? Questo non lo so, però io credo che è difficile. È una vexata questio, ma io credo che avremo un incontro con Gagliani, con l'allenatore, entro la settimana, probabilmente entro domenica sera, e da lì verrà fuori la soluzione, che non è una soluzione così difficile da trovare se tutti si metteranno nella direzione di mettersi una mano sulla coscienza e di scegliere il meglio per il nostro Milan. Franco Piantanella sbarra di questo programma, Fabio Cantadori ripescato in regia. 800240024 per il venerdì di tutti convocati. Allora, ieri con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore vi abbiamo dato le notizie che oggi leggete su tutti i giornali. Non sono più voci, ma sono cifre, numeri scritti nero su bianco. E i giornali oggi sono così, multicolor, da non vendo l'Inter del Corriere della Sera a Moratti vende l'Inter del Corriere dello Sport, a Moratti resiste della Gazzetta dello Sport, a La Tentazione, quest'ultimo su Repubblica. Mi è venuto subito in mente il film Proposta Indecente. Ci sono delle cose che i soldi non possono comprare. Per quanto riguarda l'Inter, riguarda quel film, lo sappiamo, no? Per quanto riguarda l'Inter, Demi Moore, eccetera, per quanto riguarda l'Inter, il cuore che sta sotto il portafoglio. Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Per ora ecco. Non cedo, scrivi, no. È il titolo del tuo articolo, La Tentazione. I numeri sono lì, nero su bianco, 360 milioni, 260 milioni o 300 come sì, viene scritto da altre parti, però c'è una voragine enorme da colmare, ci sono dei denari da mettere sul mercato. Dall'altra parte c'è Moratti che, come scrive il tuo vicino di articolo, Crosetti, Maurizio Crosetti, insomma non è la vendita di una squadra, è la vendita di una passione che dura da 60 anni. Tante belle parole, la nebbia San Siro, tanti errori, tanti sbagli, tante arrabbiature, Ronaldo, il rigore di Ceccarini, Calciopoli, i titoli, il triplete, Mourinho, eccetera eccetera eccetera. È una vita in cui i Moratti hanno seguito l'Inter e l'Inter ha seguito i Moratti, perché poi non ci possiamo limitare soltanto alla presidenza di Massimo, che è iniziata nel 95, ma bisogna partire dal 1955, quando Angelo Moratti, il papà, comprò l'Inter e la portò poi ai trionfi euromondiali negli anni 60. Quindi sono quasi 60 anni di storia a braccetto tra Moratti, la famiglia Moratti e l'Inter. E quindi si può capire benissimo come sì, una tentazione è una tentazione, viviamo tutti molte tentazioni ogni giorno, spero tutti voi, però è chiaro che poi bisogna fare anche dei ragionamenti che sono i ragionamenti del cuore e i ragionamenti del cervello, e questa è la grande dicotomia, è il grande dubbio che sta attraversando Moratti in questi giorni, perché da un lato c'è una situazione economica che gli dovrebbe suggerire di vendere, anzi non è neanche la situazione economica, sono tutti gli analisti finanziari, tutti quelli che stanno lavorando alla trattativa che vanno da Moratti a dire guarda che è un'occasione irripetibile, unica, in una situazione economica internazionale così non passerà più questo treno, perché poi ricordiamo che l'Inter ha una pesante situazione debitoria e bilanci, ne avrete già parlato immagino anche nei giorni scorsi. Dall'altro c'è però questa passione familiare incredibile e in questi giorni ci sono anche delle riunioni di famiglia in casa Moratti, certo. probabilmente stanno parlando anche a Londra in questi giorni perché pare che Moratti sia lì, ne hanno parlato all'inizio di questa settimana in un'altra riunione di famiglia in una delle loro case intorno a Milano, insomma c'è grande discussione perché poi l'Inter è Massimo Moratti ma è anche i suoi figli, i suoi parenti, molti di loro sono coinvolti a vario titolo nelle attività dell'Inter e quindi era Saras che ha finito di vivere momenti di splendore, che pure in una situazione economica, cioè societaria, non semplice, no? Ci sono stati quei cinesi che sono evaporati come, sì, come il fumo di certi film in autunno. Poi c'è stata questa voce dei russi che però erano un affare dell'altro Saras. Ramo di azienda. Saras. I russi della Rosneft che sono entrati nella Saras con una quotazione che poi potrebbe anche crescere, ma pare che le cose siano disgiunte, ecco, l'Inter è un'altra cosa. E adesso è arrivata questa proposta a cui Moratti vuole rispondere con l'offerta di un 30% delle quote massimo, però pare proprio che all'indonesiano Erik Thohir la minoranza non interessi, lui vuole tutto, ma ragione. E possibilmente subito. Sì, ma anche perché poi, qui siamo anche lo scorso anno con i cinesi, la trattativa si arenò in qualche modo per vari motivi, ma insomma, quale grande azienda estera vuole entrare in un club calcistico con una quotazione di minoranza praticamente soltanto per inserire capitali freschi e per non avere potere decisionale? Allora Andrea, tu che bazzichi lo sport da tutta la vita e sei ormai sì. Anziano come me... Sai perfettamente che in tutti gli sport c'è chi ci ha sempre provato a tutti i livelli, no? a farsi dare i soldi per poi comandare, non c'è mai riuscito nessuno che no. Mi risulti, cioè nessuno è mai riuscito ad andare da uno con il grano e dirgli senti dammi i tuoi soldi, io ti do una quota di minoranza, poi comando io. Non che mi risulti nella storia dello sport, non c'è mai riuscito nessuno, ma perché nessuno a questo mondo ha l'anello al naso. Andrea, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi ti interrogo anche sulla voce che abbiamo sentito prima, che è quella di Berlusconi, Allegri, Milan, Galliani, eccetera, eccetera, eccetera. Strade 800240024, numero verde, come la pensate voi? Pazza intera mala. Beh, però ci sta bene, in effetti. È una storia infinita che dura una vita. Pazza. Non viene bene, eh? Tutti convocati. Urlo di terrore, mi domando dove siano finiti gli ascoltatori che sto aspettando. 800240024. Intanto chiacchiero con il mio amico Andrea Sorrentino di soldi e cuore a proposito di Moratti, ma secondo te questa vicenda come finisce? Come finisce questa storia? Secondo me Moratti non vende, non lo so, lo dico. Sbaglio ogni giorno. Anch'io ho la sensazione che alla fine lui non ce la farà a vendere tre quarti del suo cuore, perché mi sembrerebbe strano, però di sicuro o vende tutto o ottiene tutto, sì. È impossibile secondo me che si arrivi alle quote di minoranza. In questo momento sembrano prevalere le ragioni del cuore, Carlo, e lo possiamo capire tutti, però attenzione perché questi sono treni che non passano più, glielo stanno dicendo in tanti a Moratti. E poi sai, adesso devi fare un mercato con un bilancio che sarà a meno 60 milioni anche il 30 sì. giugno prossimo, sì, insomma sì, certo. È un guazzabuglio vero, davvero. Sì, questo Erik Thohir certamente non è un pagliaccio come tanti ne abbiamo visti girare e roteare le palline dalle nostre parti, da quelli di Roma a quelli di Bari a Bologna, è successo da molte parti. questo non è, questo non è un pagliaccio, secondo me ci capisce poco di sport, basta guardare la stagione dei Philadelphia 76ers nell'NBA in comproprietà con Will Smith, che non è Will Smith un altro, è Will Smith lui, l'attore. Non mi sembra che abbiano investito bene i loro quattrini, però questo è uno che ne ha. Ascolta, Andrea, dimmi. Soltanto per chiosare, è chiaro che Torino è un uomo immensamente ricco, ma noi sappiamo che il calcio devi seguirlo in loco, continuamente, tutti i giorni, da presidente, da dirigente, con passione e presenza. Se questo magnate arrivasse per comprare l'Inter e poi delegasse a chissà chi tutta la gestione del club, sarebbe una cosa abbastanza particolare e secondo me negativa, e che non servirebbe all'Inter. Forse anche a questo sta pensando Moratti. Sì, no, certo, ma poi tu sai meglio di me, bisogna essere dei pazzi comunque per immischiarsi in un ambiente tout court come quello italiano. Infatti nessuno di serio, nessuno di importante, nessuno di ricco lo fa, vanno a Monte Carlo, vanno al City, vanno a Parigi, ma perché la realtà italiana è di una complessità tale per cui bisogna veramente avere tanto pelo sullo stomaco o tante palle o tanta incoscienza per venirsi ad immischiare in un ambiente come quello italiano, dove le commistioni tra calcio, politica, economia, eccetera, sono tali per cui tu non puoi pensare, se sei uno mediamente saggio, di arrivare qui e dire: compro un club, costruisco uno stadio, investo dei soldi e magari ce ne guadagno dagli altri. Qui in Italia non funziona in questa maniera. È chiaro che qualcosa sta cambiando, o forse cambierà con l'arrivo di magnati stranieri, come è successo in tutto il resto del mondo, ma voglio ancora vederla questa cosa. Intanto restiamo nel campo dei mecenati. L'altro è dall'altra parte di Milano, Silvio Berlusconi, lo abbiamo sentito prima. Allora, ieri prima il caffè, poi l'aperitivo, la storia di Allegri che continua, si è autorizzati a pensare che Allegri possa restare al Milan, eppure a me dicono ogni giorno che arriverà invece Seedorf. Domenico, lunedì, l'incontro previsto con Berlusconi, che viste le nuvole forse decide di tornare dalla Sardegna, dovrebbe incontrare il suo allenatore o ex tale per dire che cosa? Per dirgli che in faccia che non ha più bisogno dei suoi servizi, perché questa sembra essere questa la decisione di Berlusconi, anche se è una decisione che, visti i tempi, sta diventando abbastanza articolata, ecco, non è più il Berlusconi che batteva i pugni sul tavolo e che da un giorno all'altro cambiava tutto, ma evidentemente anche qui la questione di bilanci, perché c'è un contratto di Allegri che balla e che c'è e che è in essere e che durerà fino al 2014. Quanto costa Allegri, che non mi ricordo più? Siamo sui 2,5 detti, quindi sono 5 milioni per il club. Ed è chiaro che bisogna anche parlare di questo tipo di situazione, però al tempo stesso Allegri alla Roma sarebbe comunque una soluzione di ripiego anche per la Roma, perché tutti sanno che Allegri vuole assolutamente rimanere al Milan, i giocatori vogliono ancora Allegri alla guida del Milan, Galliani vuole ancora Allegri. La curva anche per quello che vale, però insomma di sicuro lo spogliatoio e il primo dirigente al seguito del Milan vogliono Allegri, soltanto Berlusconi è contrario, per motivi che non sono poi tra l'altro neanche chiarissimi, perché non possono avere grandi radici in questioni tecniche o tattiche, perché insomma alla fine poi Allegri il suo lavoro l'ha fatto, per cui è una cosa molto strana. Io vi garantisco che in questi giorni ho sentito anche ex giocatori del Milan, ne ho incontrati un paio nei giorni scorsi, e sono tutti sbalorditi di fronte all'idea che uno come Clarence Seedorf, ma davvero tutti scoppiano a ridere, possa diventare allenatore. È una cosa che non riescono a digerire, è una cosa che veramente sembra incredibile a tutti coloro che hanno giocato con Seedorf negli anni d'oro del Milan di Ancelotti, tanto per dire. E quindi è una decisione molto strana quella di Berlusconi, che per la prima volta forse non trova alcun tipo di riscontro dell'ambiente Milan, e questa è la novità vera ed è la cosa che sta rallentando la trattativa. Comunque tu dici Allegri non sarà più l'allenatore del Milan. La sensazione è quella, perché le voci poi c'è anche la testa della Roma molto importante. Esatto, le voci anche, non resta che aspettare domenica o lunedì insieme. Grazie Andrea. Forse. Ciao. Grazie ad Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica, mio caro amico. 800 24 00 24, manifestatevi a questi microfoni, fatemi sentire la vostra voce, parlate di quello che vi pare, naturalmente di sport, altri argomenti forse non siamo così preparati, salvo due o tre, però io voglio sentire voi. Fabrizio da Prato, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Ah, io volevo intervenire per la faccenda Moratti, perché le considerazioni le ha fatto che effettivamente non ci sarà probabilmente un investitore che entrerà nella minoranza, e su questo sono d'accordo. Dobbiamo anche valutare però che i tempi sono un attimo cambiati, e mentre fino ad oggi queste società italiane, che poi le società calcistiche piuttosto che di altri sport, possono essere in qualche modo paragonati alle imprese italiane, che sono imprese prevalentemente basate sulle famiglie. Non in qualche modo, tout court, io credo che, insomma, se andiamo a vedere il peso specifico del calcio in particolare all'interno del PIL di ogni paese, non solo l'Italia, è un'azienda importante, è un ramo importante. È un ramo importante, esatto. Dobbiamo anche riflettere se in realtà questi grandi investitori che arrivano con dei capitali probabilmente inarrivabili per qualsiasi persona italiana o imprenditore italiano, bisogna vedere poi se hanno la capacità gestionale. Sì. E su questo ho dei forti dubbi che avrebbero nelle imprese italiane in genere, ma soprattutto nelle imprese italiane calcistiche, capacità gestionale pur con capitali enormi di portare dei risultati. Sì, però Fabrizio, però io non mi vedo Tahir o chi per esso che viene qui e fa il presidente, sceglie i giocatori, fa il mercato, eccetera, eccetera. Però mi vedo un imprenditore, cioè posso immaginare ad un imprenditore che investe tanti soldi, che mette a capo della società un uomo di sua fiducia e che sia ovviamente esperto di calcio e campionato italiano, perché questo mi sembra il modo più lucido e corretto di ragionare, e che però decide in proprio, perché anche lei non so che lavoro faccia, non so se abbia mai visto nella sua vita, nella sua carriera, qualcuno che mette i soldi in un'azienda e non comanda, perché a me questo, cioè per me questo è irrealizzabile, è evidente. No, io infatti la mia titubanza è questa, cioè è evidente, lasciamo, fino ad oggi non è mai successo, salvo rari casi, sul fatto che non sia irrealizzabile non sono così d'accordo, perché non diamo più valore a quello che voi avete definito il cuore, che in realtà il cuore delle imprese italiane, così come nel calcio, è importantissimo, perché non sono aziende organizzate, calcistiche, da avere organizzazioni tali da essere gestite solamente da manager senza cuore. Sì, no, questo è vero, però sappiamo bene come in Italia, soprattutto nel calcio, il cuore sia, o quantomeno la pancia, siano cose importanti per come è stato gestito il calcio italiano fino adesso, perché vale per Berlusconi, per Moratti, per la famiglia Agnelli, eccetera. Servono manager capaci, però in Italia, come scrive Crosetti, sotto il portafoglio c'è il cuore quando si parla di calcio. 800 24 00 24, adesso posso far sentire Fiorello cosa ha detto? Sì? No? Dopo? Che faccio? No, io lo faccio sentire adesso, mentre vi aspetto. Divertentissimo Fiorello questa mattina sull'affare dell'Inter. Poi c'è chi mi scrive che parli di Inter, eccetera, l'hai fatto ieri, lo facciamo oggi, insomma mi sembra l'argomento del giorno, non lo so se leggete i giornali, ho qualche dubbio. Allora sentiamo Fiorello. La Gazzetta dello Sport, eccola qua. Ragazzi, guardate, no, questa va vista, perché Indo Inter, io sono interista, vi prego, sono interista, io come presidente Psy non lo voglio, sai che mi fai Gangnam Style, non lo voglio. Open Gangnam Style, Gangnam Style, Open Gangnam Style. Ha scritto oggi che qualcuno che c'è una somiglianza tra questo imprenditore indonesiano, Erik Thohir, e il leader del Gangnam Style. Adesso però sentiamo cos'altro ha detto Fiorello, perché secondo lui c'è qualcuno che potrebbe essere contento all'Inter, nell'Inter attuale, di un ingresso di questo indonesiano. Ragazzi, no, perché pare che l'Inter, Moratti, si sia stufato e voglia vendere l'Inter agli indonesiani. Cassano è contento perché a me, perché lui dice beh, da Bari a Bali vecchia il passo è breve, voglio il passo è breve. Questa fin troppo facile, ragazzi, aspetto voi magari con qualche battuta migliore. 800240024, ci sentiamo dopo la borsa. Mi candido per guidare il suo motorhome quando lei realizzerà il sogno di correre all'isola di Man. Tutti convocati. 800240024, adesso siete in tanti e non vedo l'ora di parlare con voi. Magari non con chi mi scrive che palle è diventato il tuo programma mezz'ora a parlare del thailandese dell'Inter e gli altri sport? Gli altri sport! Quali? Non è chiaro. Sei peggio delle trasmissioni televisive. Well, now they gave me his orders at Monroe, Virginia. They said, Steve, you're way behind time. This is not 38, this is old 97. Put her in the Spencer on time. Miei cari amici, compresi quelli mal informati, sapete bene che in questo periodo ogni giorno apriamo una finestra su dei playoff italiani di basket che mi sembrano più interessanti ancora di quelli dell'NBA. Ciao coach Dan Peterson. Ciao Carlo, amici sportivi, buongiorno a tutti. Come stai? Ci stiamo divertendo, secondo me, con questi playoff. Non c'è niente di garanzia adesso, c'è proprio, se dovessi stare con una squadra per vincere il scudetto, adesso direi Siena, perché sì. A 2-1, un'altra partita in casa, vantaggio il campo, e poi se va in finale, tutte le sue squadre, ha già eliminato Milano, potrebbe anche eliminare Varese, quindi... Squadra in grande forma, sì. Squadra in grande forma con due giocatori al momento inarrestabili, Eket su tutti, ma anche Moss, che ha giocato la sua miglior stagione da quando in Italia, compresa quella di Teramo, secondo me, no? Ma guarda Carlo, è con Moss e con Daniel Hackett, hanno due muri invalicabili lì, proprio la prima linea difensiva, cioè loro prendono i piccoli del playmaker, la guardia dell'altra squadra e davanti sono due atleti strepitosi che non gli permettono di fare niente, cioè proprio non riescono a penetrare, non riescono a passare, non riescono a tirare, cioè proprio li costringono a recuperare il palleggio, li raddoppiano, cioè li rendono la vita assolutamente impossibile. Sì, senti coach, posso farti una domanda difficile alla luce di questi playoff e di questa stagione? Prenditi il tempo che vuoi, però... Come ho detto negli altri giorni, in Italia piangiamo molto per una nazionale che non ha giocatori. Io in questa stagione, sarà che mancano i quattrini, sarà che c'è stato più coraggio, sarà che sono migliorati loro. Tu un giorno mi dicesti, gli italiani se non trovano spazio in Italia vadano a giocare in Lussemburgo, vadano a giocare in qualunque altro paese in cui ci sia qualcuno disposto a credere in loro e a dargli minuti. Adesso abbiamo visto minuti agli italiani e allora ci troviamo alla vigilia dell'Europeo con... Travis Diner, che è diventato italiano, ha giurato, non è italiano e lo sappiamo, però è eleggibile per la nazionale e non vedo perché buttare via questo talento. Ci troviamo Daniel Hackett, ci troviamo De Nicolao, ci troviamo Polonara, ci troviamo Melli, ci troviamo diversi giocatori in grado di fare una nazionale e anche un quintetto come si deve. Ma guarda, e poi ho letto che anche Andrea Bargnani ha dichiarato che vuole giocare per l'Italia quest'estate, quindi è una squadra veramente, comincia a mettere bene, abbiamo anche dimenticato Alessandro Gentile. Ma certo, Alessandro Gentile. MVP del campionato, figurati che dimenticanza, quali dimenticanze? No, ma è chiaro, ma la lista è abbastanza lunga, coach. Sì, è vero. E dov'è il coach? Caduta la linea, vabbè. Adesso la recuperiamo con coach Dan Peterson. Intanto, per la cronaca, ieri in gara 3 Varese ha perso a Siena dopo aver vinto gara 2. Siena, dopo aver vinto gara 1, conserva il vantaggio del fattore campo. E questa sera aspettiamo il quarto atto tra Cantù e Roma, perché si gioca a Cantù di una serie che che secondo me è molto interessante, molto incerta, molto indecisa, insicura, piena di dettagli. Ne abbiamo parlato anche ieri con Bruno Arrigoni. Non mi aspettavo, e devo dirvi la verità, una serie così equilibrata tra Roma e una Cantù che secondo me rimane forse l'unica dal punto di vista della profondità e del talento anche a poter mettere in una ipotetica finale qualche bastoncino tra le ruote di Siena. Coach è in galleria, vediamo se poi lo ritroviamo. Paolo da Parma, buongiorno. Ah, ciao, buongiorno. Ciao. Vengo dopo il coach e quindi ho ascoltato metà perché poi ho dovuto spegnere la radio. Sì. Comunque anch'io volevo commentare l'andamento di queste semifinali, soprattutto quelle tra Siena e Varese, che sono sorprendenti per un lato, perché ovviamente Varese sta pagando secondo me lo scotto di un periodo non particolarmente positivo dopo una stagione regolare fantastica, e dall'altro secondo me la forza di Cantù di non mollare mai. È probabile che secondo me ci sarà una finale Siena-Cantù che io non darei così per scontata, non so cosa tu ne pensi. No, nemmeno io, non voglio darla per scontata nella maniera più assoluta. Secondo me Siena, tu dici, sta pagando lo scotto di una stagione regolare. Varese sta pagando lo scotto di una stagione regolare giocata ai massimi livelli, però non dimentichiamo che adesso si gioca un altro sport, Paolo, perché sì. giocare ogni due giorni dopo che hai tutte quelle partite, che hai tutta la stagione regolare sulle spalle, diventa un altro gioco, diventa un altro sport, diventa un gioco al massacro o allo sfinimento fisico, ed è questo che io ho sempre detto. Secondo me conta anche questo fattore, cioè conta la profondità della squadra, contano le energie che hai ancora da buttare sul campo, ed è per questo che nonostante ci si sia abbastanza divertiti, anzi ci sia molto divertiti con tre quarti di finale su quattro che sono finite a gara 7, io continuo ad essere profondamente contrario a queste serie di playoff così lunghe, perché ammazzano squadre già comunque in difficoltà fisica, e Varese paga le conseguenze di questa formula. Immaginiamoci una serie magari anacronistica finché volete, però al meglio delle tre partite, come si faceva un tempo. Non sono uno particolarmente legato al passato, non sono men che meno uno che dice ma era tutto più bello prima, però per dare interesse, sale incertezza e magari anche spettatori paganti al campionato, giocare delle serie più brevi rispetto a queste che vediamo, che pure sono molto interessanti. Ebbene, sono contrario all'allungamento delle serie alle 7 partite. Tutto qui. Roberto Rimini, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ascolti, grazie della convocazione. No, grazie a te. Grazie a te di aver risposto. Posso dare una notizia flash di cronaca? Perché sì. Si corre al Mugello, vicino a casa tua, come ben sai, una tappa importante del moto mondiale. E nelle prime prove c'è stata una bruttissima caduta per Marquez, il nuovo fenomeno del motociclismo mondiale, all'onda staccata da San Donato, tanta paura. Ma dalla barella su cui è stato caricato si è sbracciato per calmare tutti, pare niente di grave, però Marquez ha preso una bella botta. Prego Roberto. Niente, io volevo parlare di Siena. A me ieri sera sinceramente mi ha fatto impressione quel centrale Horner, si chiama, mi sembra. Il centro Ben Horner, sì, austriaco. Horner, sì. Mi ha fatto un'impressione, mi ha smollonito, è stata una cosa impressionante, a parte i due fenomeni che avete detto prima. Roberto, Horner è un giocatore che conosciamo estremamente bene dalle nostre parti, ha giocato a Reggio Emilia, ha giocato a Cantù, lo ricordiamo fino all'anno scorso, quest'anno è passato a Siena, è un giocatore di grande solidità e anche uno con tanti attributi, perché l'ho visto giocare una serie di finale proprio con Siena un paio d'anni fa con una caviglia che faceva paura. Quindi è un giocatore di grande solidità, è un giocatore su cui fare affidamento. È chiaro che non è quello che fa la differenza, perché quelli che fanno la differenza a Siena si chiamano Bobby Brown, si chiamano David Moss e si chiamano soprattutto Daniel Hackett. Sì, chiaro, è indiscutibile. su questa cosa qua. E poi sull'Inter volevo dire che io spero che Moratti non venda, perché magari con un po' di sacrifici e tenendo qualche giovane, mi sembra una cosa vedere quella faccia lì che fa da presidente, non mi piace. Vedi che in Italia il calcio è così, cioè il calcio è non è solo quattrini, non è solo affari, è passione estrema, e quindi è molto difficile per chi viene da fuori essere credibile, farsi amare e riuscire anche a costruire un'organizzazione funzionale. Non ci vogliono solo i soldi, ci vuole anche profonda conoscenza dell'apparato italiano, che è quanto di più complicato ci possa essere. E poi ci vuole, e sarà importante, ed è importante per chiunque decida di avventurarsi, e avventurarsi mi sembra la parola più corretta, nella foresta del calcio italiano. Poi questi sono i sentimenti dei tifosi. Io credo ci siano anche tifosi dell'Inter, come in passato ci sono stati dei tifosi del Milan, che chiedevano in quel caso a Berlusconi, in questo a Moratti, di lasciare la presidenza per tornare ad avere un Inter competitiva il prima possibile. Però da noi il calcio è passione, e a me piace così, sinceramente. Tutti convocati. Eccoci tornati. 800240024 è il vostro numero verde per intervenire su ogni faccenda di sport. Allora, avrete letto, mancava solo questa a fine stagione, alla vigilia di un amichevole con San Marino che mi fa venire latte alle ginocchia, che giocherà la nazionale, alla vigilia di una partita più importante con la Repubblica Ceca, di un torneo come la Confederation Cup, che è una kermesse tanto per testare gli impianti brasiliani. Ebbene, alla vigilia ci mancava quest'altra storia relativa a Balotelli e alle confessioni di un pentito. Sentiamo Balotelli, che è stato accusato di fare il pusher per gioco. Non so come delle persone possono parlare e possono, a me no, perché ovviamente non c'entra niente, però magari se lo fanno con altre persone che c'entrano veramente, come fanno a mettermi problemi altre persone? Non è una cosa normale e sinceramente non si devono permettere. Smentisci assolutamente il fatto? Assolutamente sì. Poi io sinceramente proprio con la droga la odio, quindi non c'entra niente. E io gli credo, non so, voi fate quello che volete. Mi viene sempre in mente quella maglietta che ho promesso di regalare anche a Franco Piantanida, oltre che, anzi ne compriamo due, una per me e una per lui. Why Always Me, mi sembra comunque sempre la più appropriata. Ma anche, ha parlato anche Prandelli di questa vicenda. Mi sembra che Mario abbia risposto, penso che non ci sia nessun commento da fare, non saprei dire altro. Mario ha risposto, basta, non... è un argomento che non mi interessa proprio nulla. Dunque proviamo a glissare così, a dimenticare questa e a sorvolare su questa faccenda, che mi sembra abbastanza così bizzarra e marginale. Non voglio credere a queste storie, e non lo farò, salvo prova contraria naturalmente. Torno agli ascoltatori. 800240024. Fausto da Brescia è il primo. Grazie per la convocazione. Grazie a te. Allora, volevo dire due cose veloci e spezzare una lancia a Balotelli, visto che sono bresciano. Sì. Per dire che ogni volta... Quindi concittadino, insomma. Lo fa in maniera campanilistica. Campanilistica, però mi sembra proprio che sia l'occasione ognuno per far parlare di sé, tirando in ballo sempre lui, ecco, per qualsiasi cosa, anche se attraverso il rosso adesso bisogna segnalarlo, perché sembra che sia diventata una cosa impossibile da fare, ecco. Quindi siamo quasi al ridicolo, secondo me. Però in alcune cose sì, in alcune cose siamo quasi al ridicolo, in altre non lo so. Certamente lui è molto sovraesposto dal punto di vista mediatico e ci mette del suo per esserlo, non fa niente per attenuare questa situazione di sovraesposizione mediatica, questo però bisogna dirlo, no? Quello sicuramente, nel senso, quel viaggio poteva evitarlo sicuramente. Ma al di là del viaggio poteva evitarsi molte cose diventate istantaneamente pubbliche. Sì, sì, sì. quello indubbiamente. Comunque volevo dire una cosa sull'Inter e Moratti, per il fatto che secondo me dobbiamo capire noi italiani cosa vogliamo fare da grandi in questo senso, visto anche che riguarda secondo me anche l'economia in generale. Cioè, il fatto di vedere sempre lo straniero, soprattutto il thailandese, prendere come se fosse del terzo mondo, quando questo è una personalità di una potenza incredibile che in America detiene gran parte di l'azionariato di una grossissima squadra di basket NBA. Philadelphia 76ers, lo sappiamo, è una squadra storica. Quindi è chiaro che la mentalità di là non può essere quella italiana, però se vogliamo metterci anche la passione, allora dopo non possiamo dire ma noi dobbiamo pensare al Bayern di Monaco, dobbiamo pensare al Real Madrid, al Barcellona, perché allora se dopo i limiti economici non ci permettono di essere sì, pari... Però, però bisogna pensare anche a situazioni che sono molto differenti, ad un regime fiscale anche che è molto differente, a situazioni ambientali che sono profondamente diverse. Non dimentichiamo che l'UEFA è un organismo privato, dunque pone le sue direttive che però sottostanno alle leggi nazionali di ciascun paese. Ad esempio, si parla tanto del fair play finanziario applicato Monte Carlo, no? Al Monaco Monte Carlo, ora di proprietà dei russi. Ebbene, i russi in questo momento possono bellamente infischiarsene delle regole del prefinanziario perché sono neopromossi, eventualmente non sono in nessuna Coppa Europea, eventualmente entreranno sotto questo regime, nella migliore delle ipotesi, fra 3 anni. Il regime fiscale, ma sto facendo soltanto un esempio, giusto per capire, per chiarire, il regime fiscale del Principato di Monaco è quello che conosciamo, è stata fatta una proposta di legge per parificare il regime fiscale delle squadre del Monaco a quello delle squadre francesi, nel quale gioca il campionato, però la situazione è molto complessa e lo è in tutta Europa, Spagna compresa. Ad esempio nella stessa Spagna non vale più la famosa deroga Beckham, la famosa legge Beckham, ma esiste ora, non per i contratti ancora in essere, ma per quelli che vengono stipulati da qui in poi, un regime fiscale addirittura più restrittivo di quello che c'è in Italia, mi risulta. Ora tu dici, noi guardiamo sempre con sospetto questi che vengono dall'estero. Sì, guardiamo con sospetto loro, però loro fanno bene a guardare con sospetto noi, perché la realtà italiana, perché il sistema italiano, perché il modo di gestire il calcio in Italia è abbastanza, io credo sia abbastanza incomprensibile per uno straniero. Cioè il signor Tahir, che va ad investire un sacco di soldi negli Stati Uniti, sa quanto spende e sa come muoversi, sa che cosa succederà ai suoi soldi, sa cosa succederà agli investimenti. È molto difficile pensare che uno straniero con tanti soldi possa venire in Italia, ripeto quanto ho detto prima, e dire ok, adesso arrivo lì, faccio uno stadio, faccio una squadra forte e magari faccio i ristoranti e magari ci guadagno anche dei soldi sul merchandising. Qui non ci si muove in questa maniera e gli stranieri che hanno i quattrini lo sanno perfettamente. Luca Treviso, poi andiamo a casa. Carlo, grazie per la convocazione inaspettata. A te, Luca. Ascolta, due cose. Beh, uno, la parola top player, che ormai mi mancava oggi. Oggi non l'aveva ancora detta nessuno. Aboliamola, non ne posso più, mi vengono i brividi, ti vengono le bolle. Esatto, soprattutto i mister, in primis Mazzarri, che non mi sta simpaticissimo, quando non sa che dire tira fuori sta parola che è un'oscenità. Quindi facciamo basta, così, basta. Daniel Hackett è un top player, almeno per il campionato italiano. Ok. E dopo un'altra cosa, la differenza, non scopro sicuramente l'acqua calda, ma la differenza tra il calcio italiano e tedesco. Domenica sì, il Borussia è tornato in Germania e uno stadio quasi strapieno lo ha osannato e proclamato. La Roma ha perso la Coppa Italia e al Pullman gli hanno tirato dietro gli hanno tirato le verdure, sì, qualsiasi le cosa, verdure quindi, nella migliore delle ipotesi. Disastro. Grande, sei un grande, trasmissione fantastica. Sei un grande tu, ma il signor Tahirs bisogna che si informi su queste cose, perché esatto, ripeto, il calcio italiano è esattamente questo, no? All'estero sai quello che succede, sai quello che succederà, se vinci, se perdi, se hai degli intenti di costruzione di impianti, degli intenti di anche di ricavarci del denaro. In Italia questo è il paese dell'aleatorio, del vivere giorno per giorno. Ragazzi, ci fermiamo qui, ma ci sentiamo domani con il magazine dalle 5 alle 6. Io ringrazio Fabio Cantadori e anche Michele Previato in regia, ringrazio Franco Piantanide, autore di questo programma. Domani alle 5 proviamo a raccontarvi il meglio e anche il peggio di questa divertente settimana.